4 mattino. Sono le 8, 18 minuti e 30 secondi di mercoledì 11 novembre, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, questa è la terza parte di 24 mattino. Alle 8 e 35 ci dedicheremo al tema della giustizia sui due fronti. Il caso che in questi giorni poi è finito un po' sotto traccia è il caso delle nomine a capo degli uffici giudiziari tramite correnti, e viene portata alla ribalta, è stata riportata alla ribalta dal racconto arrivato dall'ex procuratore di Bolzano Cuno Tarfusser, da 10 anni alla Corte Penale Internazionale dell'Aia, sottoposto ad un'indagine che ha qualcosa di surreale, messa così, perché sono 2 anni e mezzo di indagine, 11.000 pagine e un'accusa di peculato per aver fatto 1 chilometro di strada in una grande punto di un suo amico carabiniere per andare a cenare in una pizzeria che si chiama Zio Alfonso. Dice Tarfusser: l'hanno fatto perché non volevano che io concorressi a qualche ufficio giudiziario di rilievo come Milano e Roma. E poi parleremo della condizione della giustizia con questa nuova stretta, le difficoltà che si affrontano, i processi che rischiano di essere rinviati, le cause civili altrettanto. E anzi, se avete le vostre testimonianze, 800 24 00 24, se siete operatori della giustizia oppure semplicemente cittadini che si sono ritrovati con dei rinvii piuttosto lunghi, vogliamo sentire la vostra voce. 800 24 00 24. È il momento di fare un punto di giornata, come sempre, con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, ci siamo. Buongiorno, siamo ancora tutti sul vaccino. I giornali sono molto emozionati ancora per il vaccino, anch'io lo sono, solo che non è ben chiaro quante saranno le dosi che aspettano l'Italia, perché ieri ti ho letto la dichiarazione di Santazzampa, 70 milioni esultava, oggi leggo 27 milioni di dosi. Poi tu hai chiarito un punto non da poco: se quando parlano di dosi, siccome ogni vaccino l'ho fatto con il richiamo, si intende una persona oppure le contano prima e seconda, nel senso che in quel caso andrebbero dimezzate. Almeno io suggerirei di fare chiarezza su questo. Intanto Repubblica ci informa che mancano ancora 15 milioni di dosi per il normale vaccino anti-influenzali. Sì. Quindi mentre spariamo cifre su quale sarà il vaccino contro il Covid, per quello normale anti-influenzale, restiamo ai fatti, mancano ancora 15 milioni di dosi. Magari si può fare direttamente l'anti-influenzale con il vaccino anti-Covid, non lo so, perché se andiamo avanti di questo passo non arriveranno in tempo della primavera, sì. non arriveranno in tempo. Paolo, solo una piccola cosa, un piccolo elemento di contorno. Le fonti concordano su questi 15 milioni di dosi, perché come dicevo prima, noi abbiamo fatto un paio di settimane un reportage come Radio 24 esattamente sui vaccini anti-influenzali, e la cifra che ci risultava mancare era più o meno questa, facendo il calcolo regione per regione. Prego Paolo. Giusto, e appunto prepariamoci a fare un calcolo anche sul vaccino anti-Covid, nel senso che, ripeto, se ne mancano 15 milioni per l'anti-influenzale, sono poco ottimista su quando arriverà il vaccino contro il coronavirus. Nel frattempo impazziscono vari mondi, quello dei virologi, ho visto che c'è una mail del San Raffaele, fermate Burioni, insomma ci sono dei suoi colleghi di lavoro che ce l'hanno con lui e anche con altri virologi, e poi c'è il Sud, è esploso con personaggi, dimmi. È esploso con Zuccatelli, adesso ci arriveremo a Zuccatelli, però Paolo, guarda, l'audio di giornata di ieri che è circolato dappertutto è quello meraviglioso di questo Tiani, sindacalista di polizia, tra l'altro alla guida di Innova Puglia, che è un'agenzia della regione Puglia, un'azienda della Regione Puglia che si occupa anche di appalti, che si è presentato in Parlamento in un'audizione parlamentare mostrando uno strano amuleto israeliano e dicendo che serve a proteggere appunto dal virus. Poi lo hanno raggiunto quelli di Telenorba. Te lo faccio sentire perché è stupendo. Vai. È una medaglia, uno strumento di alta tecnologia, mi è stato riferito da ingegneri esperti elettrotecnici, non so la specializzazione che hanno, che lavorano in ambito sanitario. È praticamente uno purificatore d'aria, di fornire tutele al personale di polizia che è particolarmente esposto agli agenti atmosferici infettanti, che certamente non sono il coronavirus, non mi riferivo al coronavirus. Agisce nell'ambito dello spazio di un metro cubo, si porta all'altezza del petto. Considerato che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri combattono con l'immigrazione, anche con strati purtroppo della società che non sono proprio portatori di igiene sana, no? Elettro qualcosa, questo, degli ingegneri elettro no, qualcosa, Paolo. Diciamo che poi non è politicamente corretto. Comunque questo è il personaggio del giorno sicuramente, anche perché queste cose lui le ha dette davanti alla Commissione Affari Costituzionali. Un giorno forse figureranno negli annali parlamentari il dibattito sui giornali, che è un dibattito molto acceso e si assomiglia di più al Mago do Nascimento, a Maurizio Mosca o a Lino Banfi in un famoso film che faceva, dava assicurazioni del tipo. Gramellini sul Corriere sostiene la tesi che assomiglia a Maurizio Mosca, che faceva cose analoghe, sì. Ma lui è il personaggio, ma non ha tolto ombra a Zuccatelli, l'altro personaggio, quello che diceva che il virus non serve la mascherina e che per prenderlo bisogna stare lingua a lingua 15 minuti con qualcuno, non specificava se uomo o donna. E Conte, il presidente del Consiglio, ha preso contatto con Gino Strada, ti ricordi, ne abbiamo già parlato di ieri, il capo di Emergersi, che dovrebbe trasferirsi al Membagagli in Puglia. Solo che si è aperto un grande dibattito, perché l'EU, cioè Bersani e il ministro Speranza, vorrebbero che rimanesse Zuccatelli, quello del lingua, e che Strada andasse lì ad affiancarlo, mentre i 5 Stelle vorrebbero che Zuccatelli se ne andasse e che Strada facesse, non so, ieri ha parlato Francesco Sapia del Movimento 5 Stelle, via, ha detto, e il fatto sembra sostenere la tesi dei 5 Stelle, in effetti. Sarebbe bizzarro prendere Strada, che è una persona in età, mandarlo in Calabria a fare un mestiere che deve imparare per affiancare un ex negazionista. Tra l'altro i giornali si sbizzarriscono e sono andati a vedere qual era il punto dell'arte il 27 maggio, quando quando Zuccatelli disse le cose che ha detto, e hanno scoperto, non so, che Walter Ricciardi, il professore che affianca il ministro Speranza, era addirittura contrario alle riaperture di giugno, diceva era troppo presto. Quindi è un fatto di tenuta politica, siccome Zuccatelli è di Leu, è stato candidato alle elezioni, per cui ti do un consiglio come tenuta, perché gli altri sbracano. Sì. Leu tiene, se tu vuoi darti alla politica iscriviti a Leu, di voti non ne prendono magari tantissimissimi, però Bersani e Speranza sono un'assicurazione, perché ti garantiscono che rimarrai al tuo posto anche se dici qualche sciocchezza, cosa che peraltro non capita mai. No, capita molto spesso. A proposito, su inchieste televisive, prego. Ascolta, se ne sono aperte altre, perché su un'inchiesta di Report è nata una inchiesta sulle discoteche sarde. Però il personaggio rimane Zuccatelli, neanche Tiani col suo medaglione è riuscito, perché senza Tiani dubbio. È rimasto abbarbicato al suo posto in una maniera abbarbicato, un po' come il presidente americano, ha serragliato e sembra proprio che non se ne vada, e tutto intorno a lui, adesso io non voglio minimizzare, appare molto buffo, nel senso che i suoi sono per il momento abbastanza compatti. E Mike Pompeo ha detto sì, certo che ci sarà una transizione dolce al ritorno di Trump, e questo fa ridere. Però c'è un fatto inquietante, che Bolsonaro, Putin e Xi Jinping non riconoscono il nuovo presidente, non gli hanno fatto la telefonata di congratulazione. Ora per Bolsonaro va da sé, però che Putin e Xi Jinping non abbiano fatto una telefonata al nuovo presidente Insomma, è un dato significativo. Nel frattempo Putin, come vedi, è impegnato. Oggi la notizia del giorno è la pace nel Nagorno-Karabakh, non è una pace qualsiasi, perché ha stravinto Erdogan e gli altri hanno ripiegato. Io consiglio di leggere tutto se è possibile, ma bastano le prime 10 righe in prima pagina sulla stampa di Lucetta Scarafia, che spiega bene cosa sta succedendo. Una componente islamica ha avuto la meglio su una popolazione cristiana da millenni insediata e da secoli perseguitata dai musulmani. Difficile da oggi in poi essere cristiani senza incorrere da quelle parti in discriminazione o peggio. Questa storia del Nagorno-Karabakh non la trascurate, perché è una cosa importantissima per come si sta evolvendo l'Europa. Noi purtroppo la trattiamo male. In Europa nel frattempo un vertice antiterrorismo, Macron ha lasciato fuori l'Italia, anche questo vedrai, e ha lasciato fuori l'Italia perché è accusata implicitamente, non esplicitamente, di far transitare terroristi con una qualche leggerezza. Sì, sì. Prego Paolo, prego, prego. No, sempre fra le segnalazioni voglio segnalare che Ernesto Mauri lascia la Mondadori, è stato un grande amministratore delegato, lo prende il suo posto Antonio Porro, che era l'amministratore delegato della Mondadori Libri, e a me che mi occupo di editoria e anche di libri, questa cosa ti ha colpito, interessa, la trovo. Beh, mi ha colpito, non è una notizia qualsiasi. Sui giornali in altre epoche, se non ci fosse il Covid, sarebbe stata in prima pagina, però in prima pagina, se tu vedi, sì, c'è un nuovo disco di una cantante che si chiama Mischeta. Mischeta, non so se la conosco. Grandissima passione per Mischeta, io l'adoro. Non so se la conosco, ma lei si vanta perché effettivamente, questo bisogna darle ragione, è stata la prima a indossare una mascherina come cosa di moda. Nessuno conosce il suo volto, non è mai stato visto in foto il suo voto nei concerti, e quindi dice: io sono l'antesignano della mascherina, adesso si copre anche gli occhi perché non bastano più le mascherine, non è un tratto, sembra una qualsiasi con una mascherina. E poi scusami, c'è la questione D'Alema, Paolo. Beh, questa è una stupenda trovata pubblicitaria che ha avuto, che sul Fatto Quotidiano ha rilasciato una intervista fatta molto bene da Stefano Mannucci, in cui dice e non dice, il mio flirt con D'Alema, la mia storia con lui sono cose da storia personale tra ex marito e moglie. Allora l'intervistatore dice: senta, non mi faccia prendere querele, lei ha dichiarato che lui le spalmava la crema sulla schiena in barca. Però, e lei insiste, dice: no, tutto è agli atti, di più non posso dire. Insomma, insiste che lei ha avuto un flirt con D'Alema, però dice che gli sono piaciuti anche moltissimo, sempre nella stessa intervista, Gianni Agnelli e Salvador Dalì. Ora, essendo lei abbastanza giovane, esatto, è piuttosto difficile. Su Gianni Agnelli, è piuttosto questa difficile. Mi sembra difficile, però sulla cosa di D'Alema è nel titolo. I flirt con D'Alema e le mie girl super sexy, insomma, oggi farà fare un salto sulla sedia in casa D'Alema. Allora Paolo, ci sentiamo domani mattina, buona giornata, ciao. Grazie a te, ciao. Eccoci di nuovo. 5 faldoni per 11.000 pagine e 2 anni e mezzo di indagini. Questa storia si compone così, questa vicenda giudiziaria si compone così e inizia il 29 dicembre del 2017. Il punto è che riguarda un personaggio noto nel mondo della giustizia, una persona della quale tra l'altro ci siamo occupati in passato, che è Kuno Tarfus, era un magistrato, giudice della Corte Penale Internazionale da 10 anni, precedentemente procuratore a Bolzano, luogo nel quale realizzò quello che è stato definito un modello organizzativo che consentì di tagliare i costi di due terzi e anche di far fluire il lavoro in maniera che non ci fossero arretrati. E il tutto si collega, almeno nel racconto di Tarfusser, che sarà nostro ospite, con la battaglia che si è svolta e che si svolge costantemente per gli incarichi di vertice nella magistratura, in questa battaglia tra correnti. Buongiorno Tarfusser e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. 29 dicembre 2017, lei viene accusato per quello che è successo quel giorno di peculato. E perché? Ma perché? Perché quel giorno avevo organizzato con alcuni miei ex collaboratori una pizzata a pranzo e in modo abbastanza casuale, che adesso sarebbe troppo lungo da spiegare, dal centro di Bolzano fino al locale, che poi si trova praticamente nei pressi del Palazzo di Giustizia, sono stato accompagnato, e con me il sindaco di Bolzano, con un appunto, una Fiat appunto dei carabinieri, quindi un poco più di un chilometro forse, e evidentemente questa questione è adeguatamente sub iudice, non ne voglio parlare per questo, se avevo diritto, non avevo diritto, se questo è un fatto lieve o è un fatto penalmente rilevante, come sostengo io, non lo so, ognuno deciderà, potrà farsi un'opinione. Su quella punta, Tarfusser, mi scusi, mi faccia fare la parte dell'accusa. Su quella punto, lei ci è salito perché il carabiniere che portava questo appunto era uno di questi suoi amici che doveva venire a pranzo con voi, se ho capito bene. Ma certo, è un mio collaboratore di 25 anni, un amico che mi onoro tuttora di avere come amico, quindi ma questo passaggio poi succede assolutamente in modo assolutamente casuale, perché io stavo andando a piedi in quel luogo, ma comunque questo non è il sì. Punto è che io e il sindaco di Bolzano abbiamo accettato un passaggio di un chilometro o poco più dal centro di Bolzano a questa pizzeria che si trova vicino al Palazzo di Giustizia. E per questo appunto lei è stato indagato per peculato. E per questo si apre l'indagine per peculato. Al momento la procura ha chiesto l'archiviazione. A lei l'archiviazione non va bene perché vuole essere prosciolto. No, loro hanno chiesto l'archiviazione per tenuità del fatto. Come sì. Dire, il fatto di peculato c'è, ma è tenue, quindi non procediamo. Questo va iscritto al casellario giudiziale, cioè diventa un precedente. Io dico, seguendo la giurisprudenza, questo fatto non sussiste penalmente e quindi voglio essere archiviato totalmente. Sì. Questo è il punto sulla Come diciamo, 2 anni e mezzo di indagini, 5 faldoni, 11.000 pagine per quest'indagine, perché però in realtà Tarfusser, dalla procura di Bolzano sospettano che lei, avendoci passato tutto quel tempo, stia cercando ancora di carpire informazioni, di dirigere quasi il lavoro degli uffici, ho capito bene? Non so se ha capito bene, cioè, non so neanche io se ho capito bene, se avevo altro da fare io all'AIR, come alla Corte Penale, e quindi mi interessava ben poco. E il problema è che uno che ci sta 25 anni in un ufficio giudiziario ha dei rapporti umani che cerca di mantenere, di curare anche quando torna a Bolzano, quindi se questo viene pensato da qualcuno come voglia di controllare, va bene. Certo. Io, la mia era una semplice volontà di curare i rapporti personali che ho costruito in 25 anni di attività. Tarfusser, e qua arriviamo all'intreccio con la vicenda Palamara, perché nella sua memoria difensiva, nella memoria che ha presentato, nella quale chiede il proscioglimento, lei riporta anche le chat tra l'attuale procuratore di Bolzano, con il quale i suoi rapporti non sono particolarmente buoni. Lei in passato ha mosso anche delle critiche a come l'ufficio secondo lei è stato smantellato e non funziona più bene come funzionava prima. Le chat tra appunto l'attuale procuratore di Bolzano e e Palamara, nelle quali si parla proprio di lei. Si parla del fatto che questo procuratore dice: ho tagliato la testa, per così dire, alla sua organizzazione, cioè ho fatto fuori gli uomini che lavoravano con lui. E lei sospetta che il tema sia proprio il fatto che lei concorreva alla guida di altri uffici giudiziari, Roma, Milano, e che con questa indagine abbiano voluto tagliare le gambe a lei. Ma io non so cosa sospetto, io evidenzio dei fatti, quindi, ma certo che avere da un lato pendente un'indagine per peculato a carico, un'indagine che dura 2 anni e mezzo e ovviamente all'esito della quale non hanno trovato nulla da attribuirmi, al di là di quel viaggio di 1,2 chilometri, ma tendenzialmente non sono uno solito commettere reati, cioè avere un'indagine penale pendente e, come io non ho e sono onorato di non avere nessun tipo di collegamento con la magistratura associata, che io ritengo sempre ritenuto con l'autonomia e l'indipendenza non sia solo un concetto da sbandierare quando è necessario, ma che sia anche e soprattutto anche un'autonomia e indipendenza all'interno. Certo che questi due elementi non sono particolarmente favorevoli per aspirazioni nell'ambito della magistratura stessa, per cui evidentemente siccome io sono abituato a metterci la faccia e la firma e non dietro le spalle a parlare di chat o attraverso chat, evidentemente non sono proprio quello che si ritiene essere il modello di magistrato che serve per ottenere questi posti. Io peraltro ho chiesto ho fatto 7 domande per uffici direttivi perché volevo mettere al servizio la mia esperienza sia gestionale interna e i miei risultati parlano chiaro, ma anche la mia esperienza internazionale. E questa non è sufficiente per ottenere un ufficio direttivo, che è l'unico, non è una questione di potere, ma è l'unico attraverso il quale si può veramente incidere a favore dell'amministrazione della giustizia, a favore dei cittadini. Va bene, non avrò un ufficio direttivo. Mi scusi, se non vado errato, lei aveva quando ha provato a concorrere alla guida della Procura di Milano, nemmeno l'hanno convocata per un colloquio? No, cioè è stato simpatico perché cioè mi hanno mandato una mail inviandomi il prestampato per il rimborso delle spese, ma senza indicarmi né giorno né ora in cui avrei dovuto essere a Roma. E quindi sostanzialmente non mi hanno Convocazione senza data né ora. Sì, esatto. Sostanzialmente. Esatto. Con il suo, e quindi non ha potuto partecipare nemmeno a quel colloquio. Qua veniamo, se posso, a quello che mi pare un nodo centrale. Immagino con lei di sfondare una porta aperta, però è un'idea che un po' tutti ci siamo fatti, è che il grande tema del funzionamento della giustizia è strettamente collegato a come vengono selezionati gli incarichi di vertice all'interno delle procure e all'interno dei tribunali. E dunque, se questo avviene per cooptazione correntizia, è ovvio che poi le cose funzionino peggio, no? Certo, ma guardi, il sistema è malato, è gravemente malato, e questo è il punto, perché qui si deve fare, secondo me si deve fare una scelta, o si dice che le nomine agli uffici direttivi sono di natura, virgolette, politica, e allora si faccia come si vuole, però lo si dica chiaramente, oppure è una nomina tecnica e che ha a che fare con le capacità manageriali, ma allora ci si attenga alle norme, cioè non è possibile che le norme che esistono però sono talmente complicate, sono un coacervo di norme talmente complicate che ovviamente più complicata è la norma, meno chiara è la norma, più facile è eluderla, no? Quindi io dico solo, bisogna fare una scelta, nomina politica, allora si faccia come si crede, però ci si assuma la responsabilità. Ma non si faccia finta di applicare delle norme o di darsi delle norme e applicarle poi in modo diciamo molto allegro, ecco, o comunque non per eluderle, dice lei, o agirà, sì, perché sono così complicate che si può dire il contrario di tutto, cioè questo è il contrario di questo, cioè per qualsiasi persona. Certo, la ringrazio, grazie a Cuno Tarfus, re, magistrato, giudice della Corte Penale Internazionale, per il suo racconto. Ovviamente, se a un certo punto la procura di Bolzano o qualcun altro interessato alla vicenda volesse replicare, siamo naturalmente a disposizione. Il capitolo giustizia si compone ovviamente anche di tutti i ritardi e di tutti i problemi che ci sono stati a causa del blocco del Covid. Le udienze civili e penali previste dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sono state rinviate d'ufficio con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti. Per darvi un'idea, noi abbiamo già un arretrato che ben conoscete, una misura, prendiamo i ricorsi pendenti nel civile, sono 3.200.000 e passa, sono quasi 3.400.000. Nel settore amministrativo sono 174.000 e i tempi per avere un'udienza stanno diventando larghissimi. Ne parliamo tra un attimo con la Presidente del Consiglio Nazionale Forense, ma prima sentirei qualche suo collega che ci ha chiamato, però dopo la pausa. Vi chiedo di essere rapidi. È Cleto da Genova, buongiorno. Senta, io sono un avvocato di Genova di 77 anni e lavoro perché mi piace. Molti colleghi, e anche io ne ho due, abbiamo degli sfratti esecutivi bloccati anche se l'inquilino, il conduttore, ha già lasciato l'appartamento senza consegnare le chiavi. È una situazione senza senso perché aprendo la porta non si danneggia nessuno, si dà solo la proprietà dell'immobile a chi è il proprietario, che ne faccia poi, lo rimetta sul mercato, ne faccia quello che ritiene. Buona Cleto, perché è un esempio tra i tanti di un po' di strutture che stanno emergendo. Roberto da Torino, buongiorno, avvocato Sì, buongiorno, avvocato civilista anch'io. Ecco, volevo soffermarmi anch'io sulla questione sfratti. Noi abbiamo questa anomalia, nel senso che gli ufficiali giudiziari non eseguono gli sfratti per l'emergenza sanitaria, quindi sfratti bloccati fino al 31 dicembre e non si sa cosa succederà, se il blocco continuerà ad oltranza. Il punto è questo: il condomino moroso, cioè l'inquilino moroso che occupa l'appartamento con sfratto già esecutivo, sfrutta questa possibilità. Ancora una volta lo Stato scarica sul privato, sul proprietario di casa, magari piccolo proprietario, quella che è l'emergenza abitativa, insomma, che di cui tutti noi conosciamo, e appunto con l'impossibilità di rientrare in possesso del proprio appartamento, e quindi si ritrova ad avere un immobile occupato da un inquilino moroso da chissà quanto tempo, e che continua ad essere moroso e che continua ad occupare. Quindi lo Stato poi non aiuta in nessun modo il proprietario di casa. Chiaro Roberto, il punto anche il suo sugli sfratti, e poi c'è la questione più generale. E dunque saluto Maria Masi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, bentornata ai nostri microfoni. Masi, eccoci qua. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, com'è anche ai colleghi e non solo in ascolto. Com'è la situazione? Disastrosa? Difficile, non amo usare insomma aggettivi molto forti, anche perché rispetto a qualche mese fa c'è sicuramente una maggiore consapevolezza di quelli che sono stati e che sono tuttora i problemi da affrontare, in parte diciamo non ancora arginati, perché lo verificheremo solo all'esito dell'impatto, ma l'interlocuzione costante in questi mesi anche col Ministero da parte nostra, parte dell'avvocatura istituzionale e non solo, ha comunque provocato di fatto un'accelerazione rispetto ad alcuni sistemi. È proprio di ieri il comunicato del ministro Bonafede sui decreti attuativi, diciamo anche dell'ultimo decreto, il 137, e dà speranza rispetto a un'agevolata accelerazione rispetto a quello che è tutto il processo telematico, quindi non soltanto civile, anche il penale, l'attivazione di oltre 1.000 di caselle PEC anche diffuse, estese alle procure, anche ai tribunali di merito, tribunali dei minori, giudici di pace, lascia sperare, diciamo, che possano essere in parte risolti alcuni problemi, quantomeno rispetto all'accesso. Poi c'è l'ulteriore provvedimento che è importante, perché anche su quello abbiamo spinto ed è stato poi oggetto di diverse discussioni nel corso di queste settimane, la possibilità innanzitutto sulla natura dell'attività smartabile, perché per il settore giustizia il problema si poneva in maniera evidente, perché non tutta l'attività poteva considerarsi tale. Con l'accesso che oggi avranno il personale amministrativo, anche nell'ipotesi di smart working, cioè registri importanti che riguardano il civile, riguardano le esecuzioni, quindi con riferimento anche alle doglianze che hanno giustamente espresso i colleghi che sono intervenuti, alla quindi volontà di giurisdizione, al rito del lavoro, anche questo fa sperare, diciamo, che gli arretrati, la difficoltà di lavorare anche agli atti che abbiamo subito nei mesi scorsi, questo non avvenga. Questo di fatto mi sembra di capire, Masi, che possa consentire il recupero almeno parziale di quello che è saltato tra marzo e maggio, difficile intervenire sul pregresso, o forse intervenire sul pregresso lasciando per dopo quello che è saltato tra marzo e maggio, quel che vuole, però il rischio non che so ulteriore... quanta efficacia abbia sul pregresso, sicuramente impedisce che se ne accumuli altrettanto, insomma, che nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, perché ovviamente c'è la paura è che questa situazione di emergenza non si esaurisca in breve tempo. In più ci sono variabili in questa circostanza, quindi se da un lato è evidenziata un'accelerazione che probabilmente non avremmo avuto, ma ne avremmo fatto a meno se avessimo potuto evitare il problema dell'emergenza sanitaria. Comunque si coglie, diciamo, il buono è quello appunto sull'accelerazione, anche sull'implementazione degli strumenti, anche sotto il profilo della dotazione di risorse economiche, perché il problema riguardava anche il personale, diciamo, no? Quindi la questione degli organici sia anche con riferimento al personale. La sento ottimista, Masi. No, ottimista no, voglio esserlo per se stessi, per la nostra categoria. Come le dicevo in premessa, bisogna sulla carta, rispetto a quelli che sono i provvedimenti emessi, noi abbiamo qualche giorno fa anche il Consiglio Nazionale attraverso la FIF, la Fondazione, il DGSIA, ha cominciato la sperimentazione anche del deposito tematico in Cassazione. Quindi l'ottimismo, tra virgolette, nasce dalla possibilità di fruire degli strumenti. Il realismo provocato dalla necessaria, inevitabile verifica che dovrà essere fatta con l'impatto, cioè con quello che poi sono le risorse a disposizione. E su questo sono sicuramente meno ottimista, perché vi dicevo, il problema dell'organico sussiste, e a differenza di qualche, sia sotto il profilo dei magistrati che del personale amministrativo, e c'è un'ulteriore variabile che forse a marzo o nei mesi scorsi era comunque residuale, che è l'alto numero di contagi che oggi investe e può investire sia magistrati sia soprattutto gli avvocati, per i quali si pone un problema. Questo è un tema enorme. Compreso il personale amministrativo, ovviamente, i cancellieri e via dicendo, certo. Grazie Maria Masi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, per essere stata con noi. Dunque monitorerete voi, e poi vi richiameremo e sentiremo come sono andate le cose. GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.